dati rendono più chiaro una cosa che sapevamo già, è stato questo per le arti, quindi per i musei, per le biblioteche, per i cinema, i teatri, un anno disastroso. Adesso abbiamo anche il numero. L'insieme delle attività dello spettacolo in Italia è calato del 75%. Se nel 19 lo spettacolo fatturava 100, oggi nel 2020 ha fatturato 25. Se lei pensa che nell'economia, quando la crescita non raggiunge l'1%, si usa la parola recessione, è chiaro che quando noi parliamo di meno 75% parliamo di un disastro, di un autentico disastro, e non esito a dire che di tutti i settori quello più colpito è proprio lo spettacolo e la cultura in generale. Noi adesso ci si dibatte fra zona gialla e zona arancione, la cultura è zona rossa dall'inizio, tutto chiuso, non c'è previsione che si riapra. Quando anche l'Emilia Romagna passasse da zona arancione a zona gialla, che sarebbe già una bella cosa, positiva per tutti, che ci rende felici, però dal punto di vista della cultura non cambierebbe nulla, perché teatri e cinema sono ancora chiusi. E sono usciti i dati, insomma, abbiamo visto che il circo anche è un settore che è stato molto colpito, un pochino si sono salvati i cinema con le visioni per esempio online di alcuni film. Ci sono anche delle note positive, questo non cambia il giudizio su tragedie che è in atto. Naturalmente, siccome dobbiamo anche ovviamente resistere, combattere e guardare al futuro, dobbiamo anche avere l'intelligenza di guardare le cose buone che ci sono, perché si dice e si spera che avvenga anche stavolta che ogni crisi produce innovazione, e questa innovazione nel tempo ci fa uscire più forti di come siamo entrati nell'epidemia. Allora ci sono certamente tanti segnali positivi, quasi tutti si riassumono nella parola digitale, perché il cinema, che è il settore più moderno dello spettacolo, è quello che si è mosso più velocemente, e ormai addirittura ho visto che si fanno addirittura interi festival in streaming. Tutto il cinema si sta convertendo in questa chiave, che vuol dire che quando riapriranno le sale, perché ovviamente la sala è un'esperienza non sostituibile, però al pubblico delle sale che vorrà godere il film nella sua versione migliore, si potrà sommare tutto un pubblico internazionale che noi con le sale non raggiungiamo, fatica. Il digitale permetterà anche ai più piccoli di fare concorrenza a livello mondiale. Queste sono tutte cose positive che dobbiamo raccogliere. Nella musica abbiamo dati per le nostre orchestre, incluso il prestigiosissimo Muti con la Cherubini, ma la Toscanini ha lavorato su questo, il Teatro Comunale sta lavorando su questo, il Teatro di Modena, il Reggio di Parma hanno iniziato a fare le dirette streaming con ottimi risultati dal punto di vista del pubblico. E naturalmente poi ci sono sempre dibattiti, secondo me non molto acuti, che dice no, ma l'esperienza della musica dal vivo non è sostituibile dallo streaming, ma certamente, ma non perdiamo tempo in cose ovvie. È ovvio che la musica dal vivo è un'emozione non sostituibile, ma chi la vuole sostituire? Quando apriremo i teatri, però, ci sarà anche la possibilità per chi non può andare a vedere la musica dal vivo, anche perché i teatri poi nostri sono piccoli, ci sarà la possibilità di ascoltarli, per cui lo streaming resterà una cosa in più. E sempre rimanendo in ambito di iniziative online, parte adesso La Cultura Viaggia Online, sempre all'interno della regione. Ecco, la ringrazio di averla citata, perché che cosa sta succedendo? Mi sembra che anche un po' i giornali, gli organi di informazione non se ne siano accorti. Mi fa piacere che invece Radio Città Fujiko abbia messo questo al centro. Sta avvenendo che c'è una vera e propria esplosione del digitale, e ogni giorno ci sono diversi appuntamenti fruibili digitalmente. E quindi adesso il tema dell'informazione è: come facciamo ad informare su eventi che sono in streaming? Un pubblico che è a casa. Questo è il tema per me della comunicazione di adesso, è questo. Allora, noi abbiamo una forte presenza in un sito, e nel nostro sito Emilia Romagna Creativa noi creiamo un accesso facile a tutte le risorse disponibili in streaming, e contiamo che lo facciano un po' tutti, in modo che chi sta a casa possa avere sempre sotto mano le diverse possibilità che la giornata gli offre e fruirne quando c'è tempo. Ecco, a me piacerebbe anche molto che aumentassero molto le dirette, per esempio nel digitale sono un po' indietro i musei, mi piacerebbe che i nostri esperti dei musei facessero anche delle visite guidate, delle lezioni davanti a un quadro, delle dirette dai musei, anche un po', anche non necessariamente con le tecniche più sofisticate, però un po' per far vivere l'emozione da casa, delle pratiche dal vivo, delle esperienze dal vivo. Lavoriamo sul digitale, che è l'unica speranza di questi tempacci che viviamo. Spostandoci in un ambito un pochino più politico, la regione ha messo in campo dei fondi o dei piani di azione specifici per rilanciare e aiutare la cultura? Noi quest'anno abbiamo fatto un intervento straordinario che è consistito nel dare fondi per la musica dal vivo, per i club della musica, per la produzione di film, per la produzione di teatro e danza, per le imprese creative. Direi che fra una decina di giorni daremo l'elenco di tutte le imprese che saranno finanziate. Abbiamo promosso un acquisto di opere d'arte per sostenere anche il settore delle arti visive, delle gallerie. Abbiamo fatto un intervento straordinario e ci accingiamo a studiare un secondo intervento che spero essere molto solido e forte, se questi fondi arriveranno, quelli di cui si parla in questi giorni. Quindi stiamo proprio adesso facendo un secondo progetto. Naturalmente siamo consci che, anche sommando questi interventi della regione, gli interventi del governo, la situazione del settore cultura resta debole, perché è un settore che ha sia imprese, tante imprese fragili, sia tanti lavoratori intermittenti e precari e per di più mal pagati, e quindi è un settore debole che quindi paga di più i tempi bui di questa epidemia. Siamo consci quindi che i nostri interventi, sommati a quelli del governo, per ora non sono ancora sufficienti a portare ristoro, come si dice oggi, al settore, però stiamo lavorando intensamente. Purtroppo le regioni non possono battere moneta e neanche prendere prestiti, quindi facciamo con quello che abbiamo. Che ruolo stanno avendo i giovani Emiliano Romagnoli nel ripensare, nel far ripartire la cultura? I giovani che fanno parte del mondo creativo direi che sono attivissimi. Abbiamo visto questo bando di Incredible per le imprese creative, che avevamo proprio destinato a immaginare innovazioni tecnologiche post-Covid. Abbiamo ricevuto una quantità enorme di progetti molto buoni e non siamo sicuri di riuscire a finanziarli tutti, anche se adesso stiamo proprio cercando di avere un finanziamento per ogni progetto buono. Direi che c'è una dimensione creativa che è soprattutto giovanile, molto forte, di resistenza, un volere continuare a creare. I giovani, dal punto di vista generale, purtroppo con le scuole chiuse, le università chiuse, le capacità, le possibilità di iniziativa politica collettiva dei giovani mi sembrano un po' minate alla base da queste chiusure, e quindi purtroppo manca un po' la voce dei giovani, ed è un peccato, perché tutto quello di cui parliamo, compresi i vari recovery fund, tutto quello di cui parliamo prima o poi dovrà essere in buona parte pagato e restituito. Quindi toccherà alle future generazioni pagare il prezzo dei soccorsi che adesso stiamo giustamente mettendo in campo. Dunque sarebbe importante, visto il ruolo che giocheranno i giovani nel pagare il conto, sarebbe importante che avessero una voce più solida, ma mi pare che al momento non abbiano le condizioni. Diciamo che ci tocca a noi adulti cercare di tener conto, anzi dovremmo tener conto sempre più, che stiamo anche decidendo per loro.